400 milioni. E noi compriamo Riva. E i soldi chi li dà? Siamo mica disperati come voi. 400 milioni. Siamo mica disperati come voi. 400 milioni. 400 milioni. Siamo mica disperati. 400 come... milioni. C'è la direzione centrale, decide, fai progetti, programmi e dai via la produzione. Elo, Nero e Trippista si mette in movimento. I bracci, gamba, bocca, gesta, lingua, tutto, metti in movimento e... Il perone. Con quella brutta porca lì, a me ti tira più. Ecco, finito. Finito adesso. Finito.